Questo è il cammin di Gigi D'Agostino. Questo è il cammin di Gigi D'Agostino. Questo è il cammin di Gigi D'Agostino. Questo è il cammin. Ah ragazzi, cariata. Questo è il cammin di Gigi D'Agostino. Questo è il cammin di Gigi D'Agostino. Questo è il cammin di Gigi D'Agostino. Questo è il cammin. Ah ragazzi, cariata. Cariata il folclorista. Allora, ragazzi, c'è che ti dice che cambia l'ora del programma è il cammin di Gigi D'Agostin. Le peu dalle 6 alle 7, ma le dalle 2 alle 3. Da lunedì 5 marzo, il cammino di Gigi D'Agostino dalle 14 alle 15. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Passo lento ma violento e ne passa lo sgomento. Passo lento ma violento e ne passa lo sgomento. Passo lento ma violento. Il cammino di Gigi D'Agostino. Passo lento ma violento e ne passa lo sgomento.

La frequenza è codesta e la musica pesta. Disturbo? Mamma mia, ma che sta a fare? Sperimenti, oh. Sperimenti, oh. Ah, scusa. No, è che volevo sapere quando cominciava il cammino con l'orario giusto. Ah, lunedì 5 marzo, dalle 14 alle 15. Perfetto. Il cammino di Gigi D'Agostino. di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Sulla frequenza della benevolenza. M. 2. O. Gigi D'Agostino. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Mr. Gigi D'Agostino, il cammino di Gigi D'Agostino. Io o te spiego, è stato anticipato un attimino. Se va a ballare come una festa, non c'è sta più, allora sesta. Dalle 14 alle 15 c'è la musica che pesta. Da lunedì 5 marzo il cammino di Gigi D'Agostino dalle 2 alle 3 del pomeriggio. Gigi D'Agostino, un piccolo paese fuori dal mondo. Noi restiamo qua, però adesso pubblicità. Bota, per me piace fisso. Bota, per me piace fisso.

e che sia meraviglioso. Il cammino riprende lunedì, ormai l'hai capito. Gigi D'Agostino suona alle 2, questo è garantito.